in primo piano. Grazie Alessandro e buongiorno agli ascoltatori di Radio 24. Sui giornali italiani di oggi il titolo di apertura molto spesso, quasi sempre, è dedicato alle nuove polemiche tra maggioranza e opposizione, tra il Presidente del Consiglio e il Partito Democratico sulle dichiarazioni rese ieri a proposito della sicurezza e dei reati di violenza sessuale. La Repubblica ha un titolo e un sommario che ben riassume la vicenda. Stupri, scontro sulla sicurezza e sulle intercettazioni, il Premier attacca, espatrio se esce il mio nome. L'Occhiello dice, Berlusconi, servirebbe un soldato per ogni bella ragazza, Veltroni è irresponsabile, offende le italiane. Leggiamo come il quotidiano La Repubblica sintetizza lo scambio di battute e le polemiche della giornata di domenica. Scontro tra Premier e PD per una battuta di Berlusconi dopo l'allarme stupri e l'annuncio di inviare più militari nelle città. Questo annuncio, lo ha detto lo stesso Berlusconi ieri, andrà verificato in una riunione giovedì al Quirinale con il Presidente della Repubblica. Gli stupri, questa è la battuta di Berlusconi che ha innescato le polemiche sui giornali di oggi e nella giornata di ieri, gli stupri sono inevitabili, per evitarli servirebbe un soldato per ogni bella ragazza. Alla frase ha replicato Veltroni e un irresponsabile offende le italiane. Berlusconi ha poi aggiunto solo un complimento, oscenità dall'opposizione. E sulle intercettazioni il Presidente del Consiglio ha aggiunto espatrio se esce il mio nome. Questa dunque la sintesi della Repubblica, ma temi analoghi e sintesi analoghe le troviamo per esempio sulla Stampa, anche qui titolo di apertura in grande evidenza, stupri, duello Berlusconi-PD, battuta del Premier sulle donne, Veltroni offensivo, la replica dici oscenità. E anche sul Messaggero che mette questo argomento in taglio centro, sicurezza, scontro Premier-PD, il cavaliere ci vorrebbe un soldato, ogni bella ragazza, Veltroni offende le donne. Come vediamo c'è una certa coincidenza sia nella scelta dell'argomento che nella scelta delle dichiarazioni contrapposte. Il Messaggero, come anche il Tempo, ovvio per i giornali romani, dà poi molta attenzione nell'ambito di questo tema alle seguiti delle violenze sessuali recenti nella capitale o nei pressi della capitale che hanno innescato hanno fatto molta impressione e hanno innescato un grande allarme. Così il Messaggero ricorda che a Guidonia, la cittadina che è stata teatro di un episodio di violenza razziale nei giorni scorsi, ci sono stati ieri dei raid razzisti, 6 feriti e 2 arresti per le aggressioni, mentre il Tempo sceglie di puntare su una dichiarazione per molti versi atroce della ragazza vittima di un'aggressione a Capodanno, che ha detto io stuprata mi farò giustizia da sola. Questa è la sintesi del Tempo dopo che il suo aggressore che si è costituito era stato subito messo agli arresti domiciliari dalla magistratura. Adesso si parla per l'aggressore di un processo per direttissima nei prossimi giorni. Una scelta un po' diversa rispetto a quella dei giornali che abbiamo ora visto, almeno per l'apertura, la fa il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera dedica il grande titolo, senza trascurare poi nel sommario il tema della violenza sessuale e della sicurezza, dedica il titolo principale, il titolo di apertura, a una dichiarazione del Presidente del Consiglio sul dialogo con l'opposizione. Berlusconi, dialogo, punto interrogativo, mi viene l'itterizia. E un rilancio del tema, dell'argomento, della difficoltà di rapporti tra maggioranza e opposizioni, rilancio che si ritrova anche nell'intervista a Berlusconi, che è il titolo a tutto campo del giornale, intervista a Berlusconi, intercettazioni, vi dico quel che farò. Qui Berlusconi affronta il tema di un aspetto che gli sta molto a cuore, della riforma della giustizia, e il giornale sintetizza l'intervista al Presidente del Consiglio in questo modo: una legge che taglia tutto, la legge che deve riformare la giustizia e in particolare il sistema delle intercettazioni. Bossi è già d'accordo, gli altri verranno convinti dallo scandalo Genchi. Non ho paura per me, ma per la privacy degli italiani. Le accuse di Veltroni sullo stupro, oscenità. E il giornale così sintetizza la lunga intervista di Adalberto Signore al premier Berlusconi. In un'intervista al giornale il Presidente del Consiglio parla di diritto alla privacy e spiega: a me non importa essere intercettato perché non ho nulla da temere, la questione è un'altra e riguarda tutti gli italiani. Nei tabulati di Gioacchino Genchi, il vicequestore di polizia che ha creato la banca dati che scuote la politica, ci sono infatti segreti telefonici rubati a mezza Italia. Dunque, i temi della politica si sintetizzano oggi in questi tre argomenti principali: il problema della sicurezza, il problema della sicurezza declinato sulla violenza sessuale e la riforma della giustizia, che naturalmente alla sicurezza si collega, centrato con l'intervista al giornale in particolare sulla riforma, su come il Presidente del Consiglio vede la riforma delle intercettazioni. Questo è un tema, un insieme di temi che domina i giornali, lo ritroverete su tutte le prime pagine, ma vi sono anche ovviamente una scelta di altri argomenti. Una figura che interessa particolarmente oggi la stampa italiana, e che anche questa ritrovate su tutte le prime pagine, è quella di Carla Bruni. Carla Bruni, top model, cantante, moglie oggi del presidente francese Nicolas Sarkozy, è stata ieri intervistata in TV da Fazio, e le sue dichiarazioni trovano spazio praticamente su tutte le prime pagine. Il Corriere della Sera, le sue dichiarazioni e ovviamente anche una bella foto, la stampa sceglie di puntare tutto sulla foto in prima pagina. Il Corriere della Sera ha la foto, una sintesi delle dichiarazioni e anche un annuncio di commento di Aldo Grasso dal titolo intrigante "Una casalinga all'Eliseo". Dice Carla Bruni, questa volta leggiamo la sintesi del Corriere: nella vicenda Battisti non ho avuto alcun ruolo. La vicenda Battisti è la vicenda di Cesare Battisti, il terrorista condannato in Italia a titolo definitivo, rifugiatosi in Brasile e dopo essere stato a lungo in Francia, e di cui il Brasile nega ora l'estradizione all'Italia. Dice Carla Bruni: nella vicenda Battisti non ho avuto alcun ruolo, non mi permetterei mai, non ne ho l'ideologia, non ho mai difeso Battisti. Così nella trasmissione "Che tempo che fa", l'ex top model e oggi cantante Carla Bruni, moglie del presidente francese Sarkozy, ha risposto a una domanda sulla vicenda del terrorista condannato in Italia, per molti anni esule a Parigi e del quale il Brasile ha negato l'estradizione. Vi ho detto, Carla Bruni la trovate in modo diverso e con accento diverso, ma il titolo è quasi sempre su Battisti, su tutti i giornali. Altro tema che si ritrova su tutti i giornali e che io credo sia di grande interesse per le famiglie italiane è un aspetto della riforma o della modernizzazione della scuola, che ieri è stato lanciato da una dichiarazione del ministro Brunetta. Le pagelle arrivano via internet, ma soprattutto almeno questo a me appare l'aspetto più interessante, se i figli marinano la scuola, un SMS avverte i genitori. Titolo di Taglio Centro sulla prima pagina della Stampa, titolo che ritrovate su molti altri giornali. La Stampa lo correda con una intervista o con dichiarazioni del ministro Gelmini. Continua la rivoluzione elettronica del ministro Gelmini, questa la sintesi dell'articolo e dell'intervista sulla Stampa. Entro un anno la maggior parte delle famiglie italiane potrà leggere online la pagella scolastica dei propri figli, ma soprattutto gli insegnanti manderanno SMS ai genitori per denunciare l'eventuale assenza del figlio. E la fine per chi finora ha bigiato le lezioni sperando di farla franca. Spiega Maria Stella Gelmini alla Stampa, non c'è privacy che tenga, la responsabilità formativa del ragazzo resta in capo alla famiglia. Già ora l'esperimento funziona in 200 istituti italiani, ma entro l'anno scolastico 2009-2010, cioè il prossimo, sarà operativo nel 50% delle scuole. Secondo il Ministero è anche un modo per risparmiare carta e burocrazia ed è senz'altro un modo per prevenire o rendere più difficile un esercizio di... chiamiamolo libertà, ma non è una libertà ben intesa, che ha affascinato generazioni di studenti. Brevemente ancora per segnalarvi invece un fatto di cronaca che arrivato tardi nelle redazioni trova però posto su qualche prima pagina, per esempio quella della Repubblica e del Corriere ha trovato spazio nei notiziari di questa mattina. La frana sulla autostrada Salerno-Reggio Calabria che ha causato morti e feriti. Fortunatamente nelle ultime ore proprio il bilancio è stato ridimensionato e le vittime sono 2, non 3 come si era temuto, 5 i feriti. E proseguo con voi la rassegna stampa dei quotidiani italiani di oggi, lunedì 26 gennaio. Ripartiamo con una serie di argomenti economici e ripartiamo con l'apertura del Sole 24 Ore del lunedì che tratta un aspetto, anzi vari aspetti, dell'impatto della crisi sull'economia italiana. Il servizio di apertura del quotidiano titola «I fallimenti raddoppiano, i volti della crisi», questo è l'occhiello, «l'andamento risente sia della congiuntura negativa sia delle modifiche normative». Il sommario: a Napoli l'aumento sfiora il 600%, colpite le piccole aziende. Si tratta di un servizio inchiesta del quotidiano molto dettagliato con i dati provincia per provincia. Questa la sintesi: recessione e correzioni normative fanno correre i fallimenti. L'anno scorso le procedure registrate dalle Camere di Commercio sono state circa 13.000, più del doppio rispetto al 2007. Vittime predestinate dei primi colpi di maglio della crisi economica, le piccole e le micro imprese, quelle meno strutturate e finanziariamente più fragili. Nulla di drammatico se si pensa che in Italia le società di capitali sono oltre un milione, ma un segnale d'allarme che nel corso di quest'anno potrebbe crescere di intensità. È indispensabile, dicono gli imprenditori, che il governo rilanci domanda e investimenti come negli altri paesi europei. Il servizio inchiesta è accompagnato da un commento di Giovanni Negri e poi da altri dati che riguardano le iniziative di sostegno al reddito avviate proprio per far fronte, per aiutare le classi meno abbienti a fare fronte alla crisi economica. Con la social card sconti in più di 10.000 negozi, soprattutto al nord, le convenzioni con i negozi sono soprattutto al nord, però i bonus famiglia vanno per il 50% al sud, dove evidentemente le situazioni di disagio economico sono più numerose. I temi della crisi e delle difficoltà nei confronti della crisi si ritrovano anche nel servizio inchiesta, anche qui, che apre con una grande foto sopra il titolo dell'intervista Berlusconi, il giornale. Ecco 2000 occasioni per un impiego pubblico, dice il titolo, che è corredato da una foto di due bersagliere, di due soldatesse con il tradizionale cappello piumato dei bersaglieri. Perché la foto dei bersaglieri? Perché, spiega il sommario, lo Stato assume ancora forze armate, amministrativi, vigili urbani, funzionari. Concorso per concorso vi spieghiamo come trovare il posto. E sempre di economia si parla sulla Repubblica, dove ci sono, trovano spazio in prima pagina i seguiti delle polemiche dei giorni scorsi per la riforma dei contratti e il no della CGIL alla riforma. Contratti, scrive il quotidiano La Repubblica, contratti CGIL accusa, salari più leggeri. Con la riforma si perdono 300 euro l'anno, questa è la tesi del sindacato. Il ministro Sacconi, nell'ambito dell'articolo di Repubblica, replica: il negoziato non si riapre. Questa è la sintesi. Dopo il no all'intesa sui contratti, la CGIL motiva il suo rifiuto e accusa: con la riforma i salari saranno più leggeri, si perdono 300 euro l'anno. Abbiamo scelto di non firmare proprio perché siamo dalla parte dei lavoratori. Sacconi, dal canto suo, dice: è difficile che il negoziato si possa riaprire in maniera sostanziale. Epifani è il segretario della CGIL, perderà perché la sua battaglia è ideologica. E ancora Sacconi annuncia: pacchetto anticrisi in 10 giorni. Intanto la Lega boccia l'ipotesi di aiuti alla Fiat, ci sarebbe una rivolta. Questa posizione della Lega contraria agli aiuti della Fiat, che io personalmente mi sarei aspettato di vedere più in rilievo su alcuni quotidiani, trova molto spazio, un taglio centro molto evidente, sul Mattino di Napoli. Aiuti di Stato alla Fiat, alto là della Lega. No di Calderoli a interventi per la casa torinese. Altrimenti, dice Calderoli, sarà rivolta popolare. Il ministro delle riforme avverte il governo alla vigilia del tavolo tecnico in programma a Palazzo Chigi. Quindi aria di problemi per gli aiuti all'industria dell'auto, una delle industrie, anzi l'industria italiana centrale e che ha bisogno in questo momento di affrontare una crisi delle vendite fortissime. Un altro tema che si ritrova su alcune prime pagine, più a livello di commento che a livello di notizie, è quello delle scelte di Papa Benedetto XVI, che sabato ha deciso di ritirare la scomunica nei confronti dei vescovi lefebriani, e fra i vescovi lefebriani che si sono visti riaccogliere nella Chiesa c'è anche il vescovo negazionista Richard Williamson, una scelta che ha fatto molto discutere sia per il significato della riammissione dei lefebriani rispetto a quello che erano i contenuti del Concilio Vaticano II, sia proprio per la figura di Williamson. Vito Mancuso sulla Repubblica, scegliamo questo suo commento fra i tanti che trovate oggi sul quotidiano italiani, non solo in prima pagina. Scrive Vito Mancuso: una cosa deve essere chiara, negare che un crimine sia avvenuto significa commetterlo di nuovo. Ed è quello che fa Sua Eccellenza Monsignor Richard Williamson, vescovo lefebriano, ora pienamente cattolico, grazie alla clemenza di Benedetto XVI. Williamson nega l'esistenza delle camere a gas e riduce il numero degli ebrei uccisi a un massimo di 300.000, mentre si parla normalmente di 6 milioni. In questo articolo Mancuso si chiede perché Williamson sia stato riammesso e perché Williamson neghi l'Olocausto. Finiamo la nostra rassegna stampa con un tema che non può mancare il lunedì, è quello dello sport. Lo trovate ovviamente in molto rilievo sulla Gazzetta dello Sport. Risponde Adriano, l'Inter che si impone sulla Sampdoria, mantiene il suo vantaggio sulla Juventus di 3 punti, ma i giornali sportivi di oggi sono soprattutto dominati dalle polemiche sugli arbitraggi. Tanti errori, tante polemiche, ma soprattutto mi spiegava ieri il mio eccellente collega Piercarlo Presutti, che è il capo dei servizi sportivi dell'ANSA, a gennaio e a febbraio, essendoci meno calcio giocato perché mancano le coppe, ci vuole più calcio chiacchierato e allora spazio alle polemiche non avendo gol da raccontare. Con questo è tutto, io vi ringrazio della vostra attenzione, vi do l'appuntamento a domani e passo la linea, restituisco la linea ad Alessandro. A te Alessandro.